gran culo la vera verità. Non pregano mai il coro, l'intriga, la pietà. E poi tu mi dici la gioia. La gioia preferisce la verità. La gioia che si beve tutta intera. E gioia. Infatti non fummo per vivere come lupi, ma come vampiri succhiando il sangue dei tacchini. Il loro sangue per noi è veleno.